Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Per quanto riguarda la diretta potete ascoltarci sugli 87.9 modulazione di frequenza, però anche in streaming sul sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. La scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito della radio alla voce Trasmissioni Visionari oppure sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Sulla scaletta trovate gli ospiti, le uscite in sala di oggi giovedì 15 gennaio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione del piccolo schermo settimanale e poi il link per riascoltare la puntata precedente, il link per riascoltare l'archivio del 2014. Cominciamo parlando con un'iniziativa che si svolge qui a Roma al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro, una rassegna dedicata all'attore Gianmaria Volonté. Bruno, ci sei? Ciao Federico, ti ringrazio del collegamento. Ben ritrovato. Gli ascoltatori visionari. Ben ritrovato. Senti, una rassegna, intanto diciamo la programmazione, che giorni interessa? Allora, interessa le domeniche, noi abbiamo questa rassegna che portiamo avanti da tempo, cioè cerchiamo di fare i film la domenica al pomeriggio perché abbiamo individuato, fino all'altro anno facevamo il giovedì, abbiamo individuato la domenica pomeriggio come un giorno sicuramente più che riesce, diciamo, a coinvolgere più persone, probabilmente per un discorso di lavoro, di orari, e quindi abbiamo deciso di spostare un po' il giorno. Esigenze di quartiere, diciamo così. sì, nel quartiere, ma anche per chi viene da fuori, magari c'è più difficoltà ad arrivare, esatto, nei giorni lavorativi, esatto, di sera. Quindi pensavamo che alle ore 18 di domenica chi non lavora, se vuole vedere un bel film, insomma, in una sala cinematografica ancora c'è. Senti, l'idea di questa rassegna dedicata a Volonté? Guarda, l'idea era partita già da prima, cioè nel senso avevamo adocchiato il fatto che in Italia nessuno avrebbe ricordato, diciamo, la sua figura. Infatti sono state fatte veramente pochissime iniziative per ricordare Gianmaria Volonté nell'anniversario della morte. La più importante alla quale ho assistito, che sarà bellissima, è quella che sarà fatta alla scuola che l'è intitolata, che è alla Magliana, la scuola, sì, Gianmaria Volonté, la scuola di cinema, dove erano presenti grandi registi, dove c'era Vicari e Massandrea, insomma, hanno diretto questa kermesse molto interessante, però chiaramente non stiamo parlando di quella iniziativa. Noi proprio a ridosso di questo abbiamo pensato di fare un piccolo ciclo di film che partiva proprio con il documentario di Ferruccio Marotti, che si chiama Un attore contro. Sì. Questo documentario racconta un po' la sua storia di uomo, ma anche chiaramente la sua storia di attore ed interprete straordinario a livello mondiale. Quindi questo è il primo appuntamento che apre la rassegna domenica 18. La rassegna è questa domenica, quindi domenica 18, sì, alle ore 18. Sì. E poi gli altri appuntamenti? Gli altri appuntamenti sono per la domenica successiva, il 25 gennaio, Ogro di Gillo Montecorvo. E la domenica è domenica 1 febbraio, che sì, proietteremo Porte Aperte di Gianni Amelio. Okay. Mm-hmm. Quindi non so, anche la scelta di film era legata anche al tipo di carriera che ha fatto, diciamo, sì, cioè sempre nel cinema impegnato, ma sicuramente ha visto, essendo film molto lontani a livello di tempo tra loro, perché Ogro mi sembra del 1974, mentre invece l'altro film, quello di Gianni Amelio, del 1990, quindi comunque proprio un Gianmaria Volonté diverso nell'interpretare, ma anche insomma fisicamente per certi versi, no? Sì. Senti, mi parlavi anche della possibilità di aggiungere una data a questa piccola rassegna. Sì, effettivamente stavamo ragionando, adesso vogliamo vedere anche come andranno questi tre appuntamenti, insomma, ragionavamo sul fatto che purtroppo c'è stata questa luttuosa notizia della scomparsa di Francesco Rosi, ragionavamo sul fatto magari di riuscire a proiettare un film di Rosi dove c'è lui come protagonista, ci sono insomma diversi interessanti tipo la Vigiuciano, sì, o lo stesso Caso Mattei. Però questa diciamo è una cosa che dovremo magari vedere in seguito, per ora gli appuntamenti sono tre. Poi evidentemente se ci sarà la possibilità, se vedremo che ci sarà un riscontro positivo diciamo a questa rassegna, probabilmente allungheremo di una data. Senti, volonté per quanto riguarda l'immaginario cinematografico e non solo, nel quale sono cresciuto, ha rappresentato uno di quei personaggi che meglio ha saputo coniugare il credo politico con poi la pratica artistica, le scelte artistiche. Sì, diciamo che se faccio un po' un esempio, insomma, se per certi versi Alberto Sordi ha rappresentato diciamo l'italiano medio, no? Sì, sì. Per altri versi Gian Maria Volonté rappresenta l'italiano che si vuole impegnare, l'italiano che diciamo una figura diversa, no? Non diciamo l'italiano buffone, o anche se insomma interpretato benissimo da Sordi, diciamo una figura diversa dell'italiano, sì. Che questa è la cosa che sicuramente colpisce di più nella scelta dei percorsi artistici che poi lui ha voluto seguire. Senti, una cosa, una curiosità rispetto al documentario che non ho visto, ecco, come è affrontata il personaggio e l'uomo e Volonté? Ma sicuramente, vabbè, nel documentario ci sono varie testimonianze diciamo di attori che hanno lavorato con lui o che sono stati con lui in accademia, o chiaramente degli stessi registi o sceneggiatori che hanno lavorato con lui, ma diciamo sicuramente la cosa che mi ha colpito di più a me, vedendo quel documentario, è la sua vicenda personale legata diciamo ai suoi inizi, perché il padre di Gian Maria Volonté era un criminale fascista che faceva parte delle Brigate Nere, che era stato condannato ed arrestato, sono stati diversi anni di carcere. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, no? Poi sì, nel vedere poi il Volonté attore, le scelte attoriali che poi ha fatto, credo che questa cosa l'abbia colpito molto nel suo proseguio come uomo e come attore, sì. Perché poi comunque lui fin dall'inizio diciamo si accoda a una compagnia di teatro di strada a fare un po' di tutto, non era partito con l'idea di fare l'attore, faceva sia diciamo quello lo strillone tra virgolette che quello che si occupava della produzione, mettere a posto le sedie o cose del genere, fino ad arrivare a fare piccolissimi ruoli. Poi da lì diciamo si è innamorato del mestiere dell'attore e ha fatto di tutto per farlo, chiaramente si è dimostrato insomma un grandissimo talento. Senti, per avere maggiori informazioni sulla rassegna, anche sulla vostra attività, ci lasci dei riferimenti internet? Sì, sicuramente su Roma Attiva ci sono tutti gli estremi, insomma, per raggiungere il centro sociale di Comincio Alfaro in via del Tullo 330, e poi su Facebook del CSO di Comincio Alfaro, per chi è amico, ma ce ne sono tantissimi i nostri amici, si può chiedere comunque sempre l'amicizia. Allora ricordiamolo, la rassegna Un ricordo necessario di Gian Maria Volonté, da questa domenica 18 gennaio fino al 1 febbraio, con la possibilità anche di una data aggiunta. Sì, certo, chiaramente tu sei invitato ad intervenire se vuoi. se ce la faccio con piacere, certo. Ok. Bruno, un abbraccio, a presto. Un abbraccio anche a te. Ciao. Lunga vita a Visionari. Grazie, ciao. Ciao. Bene, questo per quanto riguarda il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro, qui a Roma, per la rassegna dedicata a Gian Maria Volonté. Bene, dopo un po' di tempo ritroviamo Saverio Costanzo, regista del film Hungry Hearts, in uscita in sala oggi giovedì 15 gennaio. Saverio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao, grazie. Come stai? Tutto molto bene, grazie. Tutto molto bene. Senti, tra l'altro ci siamo incontrati alla proiezione stampa qui a Roma, mi parlavi anche dello strano effetto che fa aver presentato, aver portato il film a Venezia e poi l'uscita qualche mese dopo, quindi la nuova proiezione stampa. Direi di partire dall'esperienza a Venezia. Guarda, Venezia è andata benissimo, nel senso che per noi è, ora a parte i due premi, ma proprio è andata bene anche come reazione. C'è stata, Venezia sa essere disperatamente cattiva o molto accogliente, diciamo, ecco, in questo caso è stata molto accogliente. Bene, bene. Senti, per chi ci ascolta, intanto diamo alcune indicazioni sommarie di trama. Come lo racconteresti in breve? In realtà è la storia di un uomo e una donna che si incontrano, si innamorano, fanno una famiglia, fanno un figlio e diciamo l'intenzione di Alvar Horvacher, che è il personaggio di Mina, di purificare, di tenere il bambino lontano dai veleni del mondo, dai veleni del mondo che ci circonda, piano piano diventano un'ossessione e questo bambino non cresce, lei non lo nutre abbastanza, ed è il rapporto che si genera da questo tra la mamma e il papà del bambino. Però appunto il film ha tutta una sua costruzione anche di dunque non posso svelare molto. Certo. No, io sono tentato di farlo, ma in realtà poi mi pento sempre. Diciamo che da questo si generano però un rapporto fra i due che diventa certe volte incandescente. Senti, una domanda mi è venuta in mente pensando anche alla conversazione che avremmo avuto. Madri o matrigne? Ma no, io non direi matrigne. Io il film non giudica, non prende posizione, non giudica, si limita a mostrare una storia e non sono tutte le storie. Quello che mi ha colpito a me personalmente di questa storia, che poi è tratta da un libro che si chiama Il bambino indaco di Marco Franzoso, quello che mi ha attratto era proprio la sua violenza, la sua eccessività, ma per questo la sua potenza archetipica. Dunque questo è un ambito un po' da tragedia greca, dunque non ci sono giudizi morali, ecco. C'è una realtà mostrata con la più grossa partecipazione da parte nostra, con ogni personaggio, ecco. Perciò non direi madri cattive, matrigne, persone nella loro vita, ecco, questo sì. Mi viene da dire. Ecco, dicevi delle pagine del libro, ecco, come ha avuto origine tutta l'idea di portarlo sullo schermo? Guarda, io lessi questo libro un treno andando a Udine e mi colpì moltissimo, ero turbato. Poi però lo ritenevo troppo violento, troppo forte, troppo eccessivo, appunto, per un film. E a questo titolo, scusa se ti interrompo, ma a questo titolo ci eri arrivato tu da solo? Lo avevi scelto tu in libreria? No, l'avevo letto una recensione di Fofi. Ok. Avevo letto una recensione di Fofi e come spesso mi succede, l'avevo perciò poi comprato. E poi un anno e mezzo dopo ero a casa e ho ripensato tante volte a quella storia, tante volte mi è successo di pensarci. Fino a quando un giorno ho cominciato a scrivere e è venuta fuori la sceneggiatura, senza una ricerca molto, cioè è stato tutto molto naturale, evidentemente era stata lì un tempo, era e poi era sedimentata, era arrivato il suo momento per me. Perciò io ho cominciato a scrivere e da questo è venuto fuori il film. E anche mi ha colpito anche la scelta dei due protagonisti, dei volti piuttosto anomali, delle bellezze anche cinematografiche molto interessanti. Sì, beh, Alba la conosciamo ormai. Certo. Insomma, potrei parlare a lungo di lei, ma invece no, Adam anche sono, sì, è vero, sono delle facce particolari, però anche molto comuni, cioè hanno la forza di essere, secondo me, poi sono giusti per questi personaggi. Mina e Giù, cioè sono proprio giusti, sì, per loro. Adam è stata una fortuna averlo incontrato, perché è un attore davvero straordinario, ha solo 30 anni eppure ha proprio desiderio di fare una ricerca. Ecco, lui non, la media degli attori americani è molto alta, no? Siamo sempre di fronte a una media di attori più alta di quella, sì, italiana, però sì, anche per una questione fonetica di lingua, evidentemente l'inglese è una lingua più musicale, più, però è più difficile trovare persone che non si conformano, cioè non conformiste nelle scelte in America, dico, sì, perché il sistema poi lì è davvero cattivo. Invece Adam, accettando poi di fare un piccolissimo film italiano, molto rischioso anche, ha dimostrato di essere persona intanto coraggiosissima e poi che cerca anche maldestramente, poteva essere una tragedia per lui un film del genere, invece ha solo 30 anni ed è lì oggi un attore che può permettersi di scegliere di film da fare, sì, non è poco. Sì. È stata una scoperta straordinaria, poi è venuto il film anche per lui. Noi, se non ci fosse stato proprio un attore giusto, non avremmo neanche fatto il film, non saremmo andati avanti. E invece senti Saverio, il tuo è anche un cinema molto legato alla letteratura. Sì, io sì, è vero, nel senso che poi vengono sempre da storie che leggo. È una forma che mi piace moltissimo, l'idea di poter leggere dall'inizio alla fine, di avere un sentimento concluso, che è quello che poi un regista deve ridare allo spettatore in un certo senso. E poi forse c'è anche una forma di pudore, vincono sempre le storie degli altri. Io ci provo sempre a scrivere una storia mia, ma poi alla fine è come se, nascondendomi dietro quelle degli altri, anche il mio pudore è più soddisfatto. Io magari non sono, anche per pudore, capace di affermarmi, diciamo, non lo so, penso, rifletto sul perché io provo sempre a cercare una storia da me. Però nel tempo in cui io la cerco da me viene fuori sempre qualcosa di più urgente e questa è la mia storia fino adesso. Non è un mio diktat, ecco, di fare solo film da libri, assolutamente. Vedremo. Io spero, anzi mi auguro che ne farò uno da me stesso, ecco. Sì. Però. Senti, questa dimensione internazionale, a partire dall'ambientazione per passare al cast? Beh, io non vedevo il film in Italia, il libro è ambientato a Padova. Sì. Io non riuscivo a visualizzare proprio la storia in Italia, avevo bisogno di, dalla prima pagina della sceneggiatura, ho sempre proprio scritto pensando a New York, cioè una città che, dove ci fosse di più una violenza esterna da contrapporre a una calma interna, no? È quello che capita un po' al personaggio di lei si chiude al mondo. E il mondo fuori è un mondo roboante che strilla, molto violento, molto aggressivo, che è appunto New York. E poi il personaggio nella storia originaria, cioè nel libro, veniva dalla Svizzera tedesca o dalla Germania, non ricordo, ed era molto importante per me che lei fosse sradicata dal suo paese d'origine. Per questa storia, proprio per completare il personaggio di lei, cioè che fosse un po' cane randagio. Volevamo fare un film con Alba, dunque abbiamo portato la storia a New York. Però ripeto, io da subito, sarà che pensavo anche ad Alba quando scrivevo, però da subito ho pensato che c'era bisogno proprio di una città con metropolitane, con confusione, una città che fosse proprio, poi io conoscevo un po' la città di New York e mi è venuto molto naturale, più naturale di ambientarla a Padova. Senti, mi hai detto di una importante uscita, insomma il numero di copie non è basso, insomma. No, il numero di copie non è basso, infatti sono 150. Sì, questo è un bel risultato. Sì. Noi siamo molto contenti perché questo almeno dà la possibilità a chi vuole vederlo di vederlo più facilmente ancora. Però che dire, ora quelle cose un po' che non ce l'aspettavamo, anche perché il film produttivamente è stato un film in fondo è molto contenuto, invece l'uscita è quella di un film più importante. Si vede che lo hanno chiesto i cinema, mi auguro, ecco, perciò sono felice. Se ora speriamo, ecco, magari sai che ci sono quelle cose che si dicono, siamo completamente distanti dalla realtà, non ci andrà nessuno. E 150 copie sono forse, non lo so, ora speriamo di no. Io mi auguro tutto il bene, ecco. Bene, bene. Saverio, è stato nuovamente un piacere, ci sentiamo per le prossime novità, io ti abbraccio. Grazie tante, a presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Saverio Costanzo, regista del film Hungry Hearts, in uscita in sala oggi giovedì 15 febbraio 2015. Con noi Andrea Joblin, regista del film Banana, anche questo in uscita in sala oggi giovedì 15 gennaio. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti i visionari. Come va? Tutto bene? Bene, benissimo, benissimo, ci stiamo preparando e insomma sono molto contento delle critiche, che sono davvero ottime. E insomma ero qua che leggevo per esempio il Fatto Quotidiano, ecco, dove c'è Pontigia, insomma, che dice che il film è un gioiellino, allora sono tutto contento. E tra l'altro Pontigia è anche un visionario, per cui fa parte della nostra allargata redazione, per cui sono contento di questo, insomma. Bene, bene, bene. No, senti, Andrea, sarò sincero, perché il film ero incuriosito dal titolo, c'è stata l'anteprima stampa, prima di andare all'anteprima stampa ho detto ma fammi vedere un po' il trailer, e il trailer mi ha convinto, poi ho visto la presenza di Giorgio Colangeli, che oltre ad essere un amico è una garanzia artistica, ho detto andiamo. È bravissimo, tra l'altro è bravissimo Giorgio, sì, veramente sì, molto sì, bravo. Sì. Senti, per chi ci sta ascoltando diamo qualche indicazione di trama. Allora, la trama è praticamente la storia di questo ragazzino che ha 14 anni e che è un ragazzino che ha una fragilità, diciamo, cioè in questa diciamo nel suo ambiente è trattato molto male perché ha questa mania, cioè ha la mania del calcio brasiliano, cioè il suo ambiente si vedono anche le maglie, sono tutte azzurre, quindi diciamo molto italiano, o se volete italiota, e lui quindi lo sbattono in porta quando giocano a calcio nella squadretta della scuola, ma lui non ci vuole stare in porta perché lui vuole fare il brasiliano. Allora si toglie i guantoni, prende la palla, scarta tutti, ma purtroppo di fronte alla porta avversaria si agita, la tira fuori, e il pazzo che sta dall'altra parte del muro ogni volta, ogni santissima volta, gli prende il pallone, glielo squarcia e glielo butta da questa parte. Questi sono proprio i primi 4 minuti del film, sì, che sono in qualche modo una diciamo un modo metaforico per raccontare quello che Banana vuole. Banana non vuole una vita semplicemente serena, no? Dice io non voglio essere contento sereno, io voglio proprio essere felice. Cioè Banana vuole dalla vita di più di quello che sembra promettergli questa diciamo periferia, che è romana però è una periferia dove Roma non si vede, si vede è la periferia di tutta Italia in qualche modo, e cerca. E per lui la felicità è una ragazzina che si chiama Jessica, che è la più bella della scuola e purtroppo per lui anche la più disinibita sessualmente, che ha molti fidanzati, eccetera. ed è una capra a scuola, e lui, dato che la vede lei alla media del 3, del 4, è un disastro a scuola, allora tenta di farla promuovere al prossimo anno, perché non averla in classe il prossimo anno sarebbe per lui la morte, insomma, perché ne è innamorato follemente. E quindi praticamente il suo obiettivo è fare promuovere questa capra a scuola, che è molto carina ma stupida come un muro, ignorante come un banco, ma e alla fine, insomma, non vi dico se ce la farà. Certo, questa è una piccolissima storia di piccolissimi personaggi, però è anche vero che è squisitamente una metafora, cioè è in qualche modo un po', mi piacerebbe, diciamo, Mutatis Mutandis, perché insomma era un lavoro veramente un capolavoro, i Peanuts di Schultz, sì, no? Charlie sì. Brown and Company, cioè parli di ragazzini ma in realtà parli degli adulti in qualche modo, cioè questo ragazzino cresce ma non ci sono adulti intorno a lui, sono tutti o cattivi o stanchi o mesti o sfiniti in quest'Italia che lo è altrettanto. E quindi il film fa ridere, insomma, dalle proiezioni che ho visto anche molto, e amaramente, devo dire, in molte insomma, molte battute, e vuole raccontare, diciamo così, questa purezza, questa energia, questa vitalità di questo ragazzino che si deve scontrare contro, diciamo così, delle persone che vitali non sono, anzi, che forse detestano la vitalità e la gioia di vivere in qualche modo. È comunque un film che vuole essere, diciamo, al di là della, se volete, amarezza, anche vuole essere portatore di speranza e di gioia, di voglia di vivere, insomma. Alla fine è proprio, non mi piace mai parlare di messaggi nei film, ma insomma quello che vuole dire, non so, è che bisogna avere una qualche fede, una qualche fiducia nel futuro e nella grandezza e nella bellezza della vita, insomma. Bene. Andrea, come è venuto fuori questo oggetto filmico? Come è nato? È nato che, vabbè, io avevo fatto un corto di un certo successo un bel po' di tempo fa, sì. E sono morti, che è un cortometraggio così, che aveva avuto diversi premi, eccetera. E sono morti, ho scritto veramente tante sceneggiature, devo dire, che sono morte, almeno un paio, due o tre, sono proprio morte così, perché è molto difficile produttivamente il mercato italiano ora, è veramente molto difficile, certo, fare un film. E poi ho incontrato Olivia Musini, che è quella, diciamo, una dei produttori del film, e insomma lei ci ha creduto e ce l'abbiamo fatta, insomma, ecco. Senti, questa ambientazione che hai scelto, questa periferia, dicevi che potrebbe essere qualsiasi centro urbano italiano, con i palazzioni, sì, una scuola semidiroccata, il baretto, sì, e un campo di calcio, sì, sterrato, come mai questa scelta? Questa scelta perché per raccontare una certa Italia in qualche modo, cioè non è una periferia estrema, non è, no, è una periferia, diciamo così, media, è proprio, diciamo così, sono personaggi medi, a me serviva quello, cioè servivano dei personaggi che fossero non troppo intelligenti, non troppo colti, cioè tutta questa medietà che, per cui io, diciamo, nelle storie che penso, ho sempre davanti, non sono mai lavori strani, il padre di banana ha un negozio, sono insegnanti, sono, ecco, forse la sorella di banana, ecco, diciamo che l'intellettuale, quella un po' strana della famiglia, fa l'archeologa, ecco, quello è l'unico lavoro, diciamo, un po' strano, però cercavo una medietà proprio per raccontare una storia a cui tutti, penso, diciamo, agli italiani, sia piccoli, diciamo, sia minori, diciamo, che adulti, possono aderire, possono vedersi. Io in realtà racconto questa piccola storia per raccontare le storie che vedo, l'Italia che vedo, le persone, insomma, con cui parlo, con cui vengo in contatto, ecco. Senti, che sono così, insomma, non sono astronauti, ecco, non so come dire, o persone, sì, certo, non so, ecco. Senti, a partire dalla recita scolastica dei più piccoli, il tono generale del film è molto immaginifico e molto fantasioso, il che è anche piuttosto insolito in un film italiano. E come mai questo approccio? Questo approccio perché, appunto, tentiamo, diciamo, di raccontare la vita reale, la vita vera, più vera che si può, sì, però certo è sempre cinema, e quindi per raccontare la verità devi fingere in qualche modo, sì, devi, per essere più vero del vero, devi raccontare una verità che non è, che se la vuoi raccontare deve essere una, ci deve essere qualcosa di giustapposto alla realtà, ci deve essere qualcosa di mediato, qualcosa di finto, se vuoi, ecco, quindi per raccontare la vera verità. Mm-hmm. Anche è come far recitare bene un attore. Se gli dici, ad esempio, qui i ragazzini mi sembrano recitino molto bene, però non è che gli puoi dire sì, naturale, ma tu invece gli devi costruire una naturalezza che è appunto costruzione. Sì, è come sì, scrivere un bel libro molto semplice da leggere, non c'è niente di più difficile da fare. Esatto, esatto. Senti Andrea, in quante copie uscirà il film? 10 copie. Purtroppo un po' poche, insomma, un po' diciamo, poche, però insomma immagino nelle città principali, insomma. Nelle città principali, a Roma è presente, è sempre presente negli UC Cinema, ad esempio a Roma è a Parco Leonardo e a Porta di Roma, e a Torino a Moncalieri, insomma tutti i grossi UC Cinema. Io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Andrea, ciao. In bocca al lupo alla vostra radio. Ciao, a presto. Ciao. Andrea Joblin, regista del film Banana, in uscita in sala oggi giovedì 15 gennaio. E ritroviamo Luca Scaffidi, co-regista del documentario Strip Life, Gaza in a Day, in uscita in sala anche questo oggi giovedì 15 gennaio. Luca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie ancora dell'invito e sono felice di essere qua e di raccontarvi che finalmente siamo riusciti a uscire nelle sale, anche se nelle sale fortunatamente siamo riusciti a uscire attraverso i festival e i tanti cinema indipendenti, o che almeno hanno particolare attenzione per il cinema indipendente. Eravamo già riusciti dalla fine della realizzazione del film alla presentazione al primo festival a portarlo in giro per l'Italia. Sicuramente adesso uscire in 10 sale contemporaneamente oggi è per noi una grande soddisfazione, perché ci permette di fare quello che è l'operazione che volevamo fare, cioè riuscire a portare un film indipendente nelle sale cinematografiche, e un film soprattutto che parla di tematiche che normalmente non vengono né trattate e a volte mistificate. È un piacere anche per me, perché insomma lo abbiamo seguito come lavoro dalla fase di progettazione, abbiamo fatto un primo collegamento radiofonico, poi quando è stato realizzato nel luglio scorso abbiamo fatto una telefonica con te e adesso per l'uscita in sala, quindi insomma in tre tappe abbiamo seguito tutto l'evolversi della lavorazione. Senti, per chi ci ascolta, come lo racconteresti? Come la racconterei? Una giornata a Gaza, una giornata che fa vedere la vita quotidiana, o quello che faceva sorridere molto i palestinesi, la vita normale a Gaza, perché chiaramente Gaza non ha niente di normale, ma quello che la telecamera racconta è la quotidianità di 8 personaggi, persone comune, la giornalista, il pescatore, il contadino, l'allenatore di calcio, i parkouristi, giovani, vecchi, anziani, che hanno una quotidianità normale in un contesto che non è assolutamente normale a causa dell'occupazione militare e della situazione politica che Gaza vive, che non è sicuramente una situazione normale, diciamo, e quindi la telecamera osserva in maniera distante ma presente le case, la vita, i gesti della quotidianità di queste persone, senza fare interviste, senza disturbarli nel loro quotidiano vivere. Non c'è lo spettacolo delle esplosioni, non ci sono queste immagini che spesso riempono, anzi quasi unicamente sono le immagini che riempono i telegiornali e i racconti su Gaza, ma ci sono l'intimità delle case, le strade, gli spiazzi, il vivere comune che la gente ha in una terra come quella di Gaza. Sì. Come dicevi tu, infatti i valichi, il muro, i blindati, le manifestazioni, gli addestramenti militari, gli spari sui pescatori ci sono, ma sullo sfondo. E esatto. La dimensione anche che mi è molto piaciuta, vi faccio i complimenti. Grazie. È anche questo quotidiano di molti silenzi, perché poi i dialoghi non sono così intensi e c'è proprio il vivere, le ore che passano di questa lunga giornata di Gaza nella cosiddetta tra virgolette normalità di ogni giorno. Sì, ti ringrazio sì, per aver accorto questa cosa, perché chiaramente la guerra traspare tutti i giorni nella vita delle persone, però non traspare nella maniera plateale a cui siamo abituati a vederla noi occidentali attraverso il teleschermo, ma traspare nell'impossibilità del contadino di zappare la terra un metro più in là, del pescatore di andare un metro più in là per pescare del pesce, e quindi la guerra c'è, ma è dentro la vita delle persone, perché è quello che ci interessa mostrare, e quindi quello che abbiamo cercato di fare era far parlare le persone, far parlare la loro umanità, soprattutto in una situazione come quella che vive l'Occidente, che continua a parlare di guerre di religione, guerre di culture, sa neanche avere l'interesse di capire che cos'è una cultura e come vivono le persone. Certo, questo è stato realizzato dopo l'operazione Piombo Fuso, però prima degli ultimi bombardamenti devastanti, è notizia di questi giorni anche di morti all'addiaccio, perché la gente si è accampata vicino alle rovine, insomma. Volevo chiederti anche, ecco, rispetto al vedere quelle immagini, rispetto poi a quella come è cambiata la situazione dopo gli ultimi pesantissimi bombardamenti. Per noi, ma per chi di noi del progetto di immagini è tornato giù, chiaramente l'immagine che si è mostrata davanti è un'immagine devastante. Tutto quello che noi abbiamo visto ora non c'è più. Ci fa piacere che i palestinesi stessi ci dicano in maniera chiara che l'importanza di quel film è anche mantenere la memoria di quello che è, per poi farla vedere, di quello che è Gaza, la sua quotidianità, le sue infrastrutture, la sua vita, e quello che invece oggi hanno fatto, hanno raso al suolo l'80% di quello che nel film si vede, e ci fa piacere che il nostro film sia anche una testimonianza che mantenga viva la memoria di un passato così recente, che lì cancellano con una velocità incredibile. Noi appunto siamo stati a cavallo tra due guerre, e quindi questo dà anche la dimensione di come la ciclicità della guerra continua a passare sulle vite delle persone, a radere al suolo, e loro con gesti quotidiani di resistenza ricostruiscono il loro spazio abitativo, il loro spazio umano, il loro spazio di relazioni. Luca, ci parli anche un po' della vostra esperienza di Teleimmagini e anche il rapporto che avete instaurato con i giovani palestinesi per la realizzazione di questo documentario? Sì, certo. Allora, Teleimmagini è un collettivo di videomaker, diciamo che è un po' un'identità collettiva, un Luther Blissett del videomaking. Nasciamo tutti come mediattivisti durante il periodo dell'esplosione del mediattivismo, con progetti come Indie Media, e quindi sulla possibilità di trasformare l'utilizzo dei media che all'epoca si cercava di fare. Ci siamo più o meno tutti formati nelle strade, nelle piazze, nelle lotte sociali, e questo perché siamo prima di tutto attivisti dei media, e quindi il nostro starci sempre vicino alle persone ci porta a fare questo genere di narrazione, una narrazione che dall'Italia poi ha iniziato a spostarsi con progetti in Sud America. Abbiamo lavorato a fianco di una piccola ONG per 4 anni in Colombia, facendo progetti di comunicazione in zona di conflitto. Siamo già stati in Palestina una volta a seguire le carovane dei compagni di Corum, siamo stati in Marocco, siamo stati a documentare processi organizzativi dei contadini, e siamo stati in Venezuela e in Messico con formazione e condivisione di saperi, tutti i progetti che mirano a stabilire un rapporto umano diretto con le persone. Noi viviamo a casa delle persone, mangiamo a casa delle persone, e così come ci è successo a Gaza, non avremmo potuto girare questo film se non avessimo avuto la vicinanza di queste persone, la comunione dello stesso anche spazio abitativo a volte. Questo ci ha portato infatti a lavorare con videomaker del posto, operatori video che si barcamenano fra la vendita delle immagini alle televisioni straniere e la voglia di raccontare, di fare film, e questo ci ha dato la possibilità di avere persone disponibili, attrezzature, ma persone che soprattutto ci dessero la mano a scegliere cosa raccontare. Sì. E quindi sono gli stessi palestinesi che ci hanno dato una mano a stendere quello che non era una vera e propria sceneggiatura, ma era più un canovaccio, quindi raccontare la vita in un giorno, secondo l'esperimento del cinema cubano di Fernando Perez, di questo film che ci aveva un po' illuminato sui Tavana, e quindi lavorare per Teleimmagini è stare in diretto contatto con le persone, praticare le forme di lotta, di resistenza e di condivisione di saperi, e questo ci permette di fare questo genere di immagini e questo genere di film, dove ognuno di noi all'interno del collettivo è libero di esprimere una sua poetica, che è anche capace di organizzarsi in maniera corale, di riuscire a fare un film come questo, dove la differenza tra un operatore e l'altro, visto che di operatori ce ne sono stati almeno 8 e quindi anche 8 registi, è stata ottima, diciamo, e grazie al lavoro di Luca Gasparini, montatore, partecipe al progetto, e ci ha aiutato a ottenere un film che racconta come noi vediamo la Palestina, ma sia come gli stessi palestinesi l'hanno girata, ripresa e montata. Quali sono le modalità di uscita oggi in sala, Luca? Allora, oggi usciamo a Milano al Cinema Beltrade, usciamo a Roma al Film Studio e usciamo in altre 5 date che non ricordo a memoria, ma sono raggiungibili sul sito attraverso la pagina Facebook del film Strip Life, dove sono elencate tutti i luoghi da dove partiranno le proiezioni. Alcune di queste sale sono anche il frutto del premio Avanti che abbiamo vinto al Festival di Torino, che ci ha aiutato a distribuire il film nelle sale. Dopo questi primi 10 speriamo che si aggiungano altre sale, e in ogni caso continueremo con le proiezioni, che sono state almeno una 50 negli spazi cinematografici che ci ospitano nel presentare il nostro film e il lavoro che abbiamo fatto. Luca, io ti abbraccio, ci sentiamo presto, un in bocca al lupo. Grazie, abbraccio tutti a te, tutti gli spettatori, e un saluto a tutti i compagni e le compagne della Lavoro di Libertà. Ciao ciao. Ciao caro, ciao. Luca Scaffidi, co-regista del documentario Strip Life, Gaza in a Day, in uscita in sala oggi giovedì 15 gennaio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì il cinema dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ritroviamo anche Giona Nazzaro, ci sei Giona? Assolutamente sì, buon pomeriggio. Intanto, anche se con un po' di ritardo, buon anno. Buon anno, ma lo sappiamo tutti, non è iniziata nel modo migliore. No, sicuramente. Noi ci eravamo sentiti qualche mese fa per un'iniziativa al Teatro Valle Occupato. Ti dico subito che oggi saresti dovuto essere in compagnia di Franco Montini, che però per un disguido non ci sarà, e quindi sarai tu a chiudere questa la cinquina dei film del 2014. A te spetta questo compito, insomma. Non so se hai visto i risultati parziali che ho mandato in newsletter, ho pubblicato anche sul sito. Li ho visti. Benissimo. Li ho visti. E ti chiedo subito, Giona, come faccio anche con gli altri, un bilancio dell'annata cinematografica 2014. Beh, allora, questa faccenda dei bilanci è sempre un tantinello delicata, no? Perché in quanto virgolettissime, addetti ai lavori, chiuse le virgolettissime, in genere vediamo più cose di quante in realtà non ne sono arrivate effettivamente in sala. Certo. Ovviamente i grandi titoli di quest'anno, al di là poi dell'essere più o meno d'accordo su un titolo piuttosto che su un altro, sono quelli lì, insomma, pensiamo immediatamente a Martone, a Franco Maresco e così via. Quindi globalmente mi è sembrato che il 2014 sia stato un anno che ha offerto una serie notevole di titoli. Sì, anche soltanto vedendo le cose che abbiamo visto ai festival, insomma, mi è sembrato che il 2014 ne avesse. Il problema è quello che riesce ad arrivare in sala da noi in Italia, con i ritardi che sappiamo e con le modalità che sappiamo. Quello è tutto un altro discorso, ovviamente. E infatti tra le cose che chiedo è anche sulle politiche distributive che ci riguardano, insomma. Tra l'altro c'è sempre più presente la rete, ci sono anche strutture singoli che inventano nuove forme di distribuzione anche con delle reti di sale alternative, però insomma, ecco, volevo chiederti un po' più in generale il tuo punto di vista. Beh, guarda, qualunque iniziativa, ovviamente nell'ambito del rispetto degli autori e delle persone che hanno realizzato i film, che in qualche modo provi ad ampliare l'offerta nei confronti di un pubblico curioso di guardare al di là dei limiti della distribuzione tradizionale, ovviamente è benvenuta. Perché sennò, voglio dire, anche a livello di dibattito critico tra di noi ci si esercita sempre sui soliti titoli che vediamo in un anno. E quindi, voglio dire, la rete in Italia, purtroppo, lo sappiamo anche questo sin troppo bene, non funziona ancora con tutte le potenzialità con cui agisce ed è fruita nel resto d'Europa e nel mondo. Basti dire che da noi ancora la banda non è larga e così via. Mentre l'Europa e negli Stati Uniti ci sono delle modalità che funzionano benissimo per arginare o comunque rendere meno interessante, diciamo così, il download illegale collegandosi su varie piattaforme. E quindi, voglio dire, qualunque intervento, e rimaniamo in un ambito estremamente generico, che tenti di immaginare delle modalità di fruizione, di distribuzione e anche di produzione, soprattutto di produzione, che possa in qualche modo incrinare gli equilibri tradizionali sui quali si regge ancora l'esercizio, la produzione cinematografica, sono i benvenuti, anche perché basti pensare a esempi come piattaforme come Festival Scope o Mubi piuttosto che Netflix e così via, si sono dimostrate operazioni estremamente in sintonia con la velocità di percezione di un pubblico estremamente mobile ed estremamente curioso. In realtà, se mi permetti, la cosa interessante che tutto questo di tutto questo discorso è che la rappresentazione che dà il pubblico, la rappresentazione che danno tutte queste strutture ancora ancorate ai vecchi sistemi, che hanno l'immaginazione che hanno del pubblico, è fondamentalmente sbagliata. Oggi abbiamo un pubblico attrezzato linguisticamente che non si spaventa di vedere in diretta con gli Stati Uniti le serie televisive magari direttamente in inglese, che hanno un'agilità rispetto a muoversi in rete, su programmi e così via. In realtà continuare a immaginare un pubblico che sta ancora ad aspettare il film che venga distribuito, doppiato, messo nelle sale, che francamente è una visione, non dico analogica, ma quasi da industria del vapore, non so come dire. Oggi le cose sono estremamente più veloci, non è un caso che anche il dibattito critico in rete vada molto al di là dei soliti titoli che si vedono in sala. Sì. Senti, passando ai titoli, ai tuoi cinque, se come ti dicevo, se sono cinque e in questi non sono inclusi degli italiani, puoi anche menzionarne alcuni se ti va, insomma, se invece insomma, vedi tu, insomma. Allora, i miei cinque, con una piccola spiegazione anche che accompagna ogni scelta. Sì, d'accordissimo. Allora, andiamo in ordine crescente o decrescente? Fai tu. Allora, in quinta posizione ho messo Belluscone di Franco Maresco. Sì. La ragione è auto-evidente, Franco Maresco è senz'altro uno dei massimi registi italiani di tutti i tempi. Berlusconi non è tanto un film su Berlusconi e i suoi rapporti in Sicilia, quanto una vera e propria antropologia filmica, immaginaria, di quanto è accaduto nel nostro paese, diciamo, da 3 decenni a questa parte. E oltretutto Maresco fa questa cosa con un sublime senso del comico. A me viene in mente Mastro Cinque, per dire, la sua abilità di duettare con i suoi intervistati è francamente esilarante. Sì. E questa capacità di far sorridere è pari solo allo straordinario acume politico che travalica d'un balzo tutta la banalità del discorso politico dominante in Italia. L'unico timore è che è che ci si augura che Franco Maresco non ci metta un'altra vita per fare un nuovo film e che si senta un po' anche confortato da questo piccolo successo, prima di tutto di stima più che economico nei suoi confronti, e che metta mano prestissimo a un altro progetto. Bene. Per quanto mi riguarda, io sono qui ad aspettarlo a braccia aperte. Bene, proseguiamo. Allora, al numero 4 io ho messo Interstellar di Christopher Nolan, che è un cineasta che ho, mi perdoni se parlo in prima persona così non facciamo finta di parlare di qualcun altro, che è un cineasta che ho sempre detestato, Christopher Nolan, che mi ha sempre, del quale ho sempre trovato abbastanza curiosa l'esaltazione critica fatta dai colleghi, soprattutto per quanto riguardava la trilogia batmaniana, e per non parlare delle incursioni in altri territori. Sono andato a vedere Interstellar soprattutto perché ero incuriosito dalle reazioni al veleno di coloro che l'avevano precedentemente esaltato, e quindi ho detto della serie, se ha fatto schifo a loro sarà veramente un disastro. Quindi un po' sono andato un po' al cinema con un po' di schadenfreude per vediamo come si è rotto la faccia questa volta, e devo dire che invece ho trovato un film che mi ha sorpreso, un film che ovviamente soffre sempre del difetto di voler avere una sceneggiatura circolare che spiega tutto, onnisciente e così via, ma mi è sembrato di trovare un cineasta che in qualche modo si mettesse in gioco, che a partire dal credito accumulato in tutti questi anni abbia tentato di mettersi in gioco, di rischiare, di scontentare qualcuno, di uscire un pochino allo scoperto. E per questo motivo mi è sembrato, cioè, quando un regista riesce in qualche modo, o mi sembra che riesca a mettersi in discussione, la ritengo sempre una buona notizia. E poi il film mi è sinceramente piaciuto, mi sono commosso come altri milioni di spettatori, quindi ho detto al diavolo lo snobismo, mettiamo al quarto posto Interstellar. Ok. Al terzo posto io ho messo Il giovane favoloso di Mario Martone. Mario Martone è un vero e proprio valore del cinema italiano. Il giovane favoloso io lo vedo proprio come l'altro lato di Noi credevamo. Se Noi credevamo è il grande film sulla storia, sulla disillusione della storia, Il giovane favoloso è il grande rimosso della storia, ciò che la storia non può dire, cioè, ossia la natura e il conflitto dell'uomo con la natura. E in questo senso Leopardi è davvero il controcanto critico del risorgimento negato di Noi credevamo. Il giovane favoloso è un film straordinario. Un film straordinario, graziato dalla fotografia strepitosa di Renato Berta, ed è il vero miracolo è poi che il pubblico, quel pubblico di cui si dice appunto che non capisce, che non è pronto, che ancora, invece il pubblico ha abbracciato con grande entusiasmo il film di Martone. Questa è una delle buone notizie del 2014. Sì, sicuramente. E siamo arrivati al 2. Al 2, se mi dilungo tagliatemi pure. Sì, sì, no, vai, vai. Allora, al secondo posto The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Scorsese l'avevo abbandonato all'altezza di Gangs of New York, non c'era stato nessun film che mi aveva convinto, interessato, anche solo parzialmente, per cui quando ho avuto modo di vedere The Wolf of Wall Street, anche questo lo vedevo con una sorta di rassegnazione per la serie, e invece mi è sembrato un film di una straordinaria vitalità, energia, una aggressività davvero d'altri tempi. Mi sembrava uno Scorsese d'altri tempi. Sono consapevolissimo che proprio su questa forma di energia molti si sono appuntate tantissime critiche. Io che adoro i ritorni di fiamma quando ci si ritrova con gli amici con cui ci si era persi di vista, ho amato tantissimo questo film di Scorsese, che mi ha dato il piacere di riprendere a dialogare con un regista del quale ho avuto la fortuna di vedere la maggior parte dei film al cinema, a partire da Mean Streets, quindi ho detto The Wolf of Wall Street, assolutamente sì. E infine il numero uno è forse il mio regista preferito sempre tra gli americani, è Jersey Boys di Clint Eastwood, uno straordinario musical, un romanzo di formazione, una parabola americana, un film che ho amato in maniera totale, viscerale, indifesa. È un film che si fa amare in ogni inquadratura, in ogni stacco di montaggio. Ecco, per me Jersey Boys è il cinema. Bene, bene. E allora a questo punto tiriamo anche le conclusioni, perché mi sembra che non cambi nulla in testa alla classifica, e credo che dopo Boyhood, che ha avuto 10 voti su 16 che eravamo alle votazioni, poi c'è Anime Nere di Francesco Munzi con 6 voti e una menzione, lo dovrò chiamare e avvertirlo di questa cosa, e poi c'è The Wolf of Wall Street, anche questo con 6 voti e una menzione, e poi Il Giovane Favoloso di Martone con 4 voti e 5 menzioni, e Berlusconi di Franco Maresco con 4 voti e 4 menzioni. Questa è la cinquina, insomma, di questo 2014 secondo noi 16. Questo è il risultato, insomma. Giona, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Io vi ringrazio per l'invito, la conversazione, spero di non essere stato noioso, no. E a risentirci presto. Benissimo, a presto. Grazie, ciao. Buon pomeriggio. Ciao, Giona. Antonino Maggiore, regista della video inchiesta sul 3 ottobre del 2013, che è stato presentato in più occasioni. Antonino, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti, saluto tutti, ciao Federico. Allora, racconta intanto a chi ci ascolta di cosa tratta, cos'è questa data maledetta del 3 ottobre 2013. Intanto voglio ringraziarvi per l'attenzione che avete dato, diciamo, a questo lavoro, visto che tanti, sia nazionali che internazionali, diciamo, hanno sorvolato su determinati aspetti di questa vicenda. Sì. Io proprio per questo da diversi anni, diciamo, a Lampedusa porto avanti questo mio progetto, che ci siamo portato avanti dalla mia buona volontà e dalla voglia di raccontare quello che succede realmente sull'isola in cui vivo, no? Io ho iniziato a fare questo proprio per questo motivo, e spesse volte, infastidito dalle disinformazioni che vengono date da molti media, io ho creato un canale dove racconto, diciamo, la vita, tutto quello che succede a Lampedusa, senza nessun vincolo che può essere quello politico, economico o di altro genere, cose che non mi interessano, diciamo. Nel raccontare la vicenda del 3 ottobre, diciamo che confesso che sono stato molto combattuto, perché sono oltre il materiale che ho girato io personalmente, essendo qua quella mattinata, è quello che sono riuscito a recuperare guardando le immagini. Diciamo che guardavo le immagini, me ne andavo a letto e lasciavo stare, avevo pensato proprio di lasciare stare tutto. Poi ho pensato che era giusto, diciamo, montare queste immagini in primis per gli uomini e le donne e i bambini che hanno perso la vita in quel tragico giorno. Poi principalmente per dare voce a chi in prima persona era là, no? Perché sì, tanti parlano, tutti si raccontano, tutti ci vogliono raccontare delle verità, ma poi bisogna sentire chi era là, chi ha aiutato queste persone, quindi l'ho fatto principalmente per questo. E poi per dare, diciamo, rilevanza a determinate cose che hanno raccontato i migranti che erano su quella barca e che sono state sottovalutate, diciamo, cioè nessuno nei media nazionali e internazionali ha dato valore a quello che raccontavano i sopravvissuti, i soccorritori. Tutti hanno puntato, diciamo, il riflettore su altro, hanno raccontato la tragedia come volevano raccontarla senza capire bene quello che è successo. Mm-hmm. Questo è il senso del lavoro, diciamo, che io ho fatto. Mm-hmm. Cosa emerge dai racconti dei migranti? Ci sono delle cose, diciamo, che sono state trattate nei primi giorni, ma proprio a livello superficiale, ed è scomparsa, diciamo, subito l'attenzione sulle cose che raccontavano, e hanno puntato, diciamo, tutti i riflettori su altre cose. Loro raccontavano e raccontano in questa inchiesta, diciamo, di due imbarcazioni che ci sono girate attorno e se ne sono andate. Cioè intorno alle 3:30 sono passate due imbarcazioni, una si sono fermate, una gli ha fatto il giro e se ne sono andate. Quindi erano convinti loro di essere trovati in Europa, comunque quasi tratto, diciamo, chi è competente di capire bene quello che è successo, giusto? Però diciamo che non c'è stato l'interesse nel capire quello che è successo in realtà. Mm-hmm. Senti, qual è il bilancio di vite umane di quella giornata, di quello sbarco? Si parla di 366 morti, mm-hmm, e 20 dispersi. Senti, il tuo lavoro che stai facendo a Lampedusa, cosa ha prodotto oltre a questo documentario? Quali sono le attività che riesci a mettere in piedi? Io racconto tramite questo canale su internet, che trovate su internet, Libera Espressione Lampedusa, quello che succede sull'isola. Io ho raccontato il 2011, diciamo che io lo faccio sempre, giro sempre con la telecamera, poi quando ci sono degli aspetti che emergono a livello nazionale e anche internazionale e vengono raccontati in una certa maniera, cerco di raggruppare tutte le informazioni e produrre qualcosa, no? Che possa, diciamo, dare un segnale e far vedere le cose per quello che sono. Cioè, hai creato anche, sei riuscito a creare un collettivo di persone che collaborano con te? Diciamo che per questo lavoro devo ringraziare l'associazione collettiva Scausa, che si sta occupando a fare delle proiezioni in giro per l'Italia e all'estero, in modo da, diciamo, far vedere questa video inchiesta. Quindi devo ringraziare loro che magari fanno girare questa video inchiesta e quindi dare la possibilità alle persone di vedere quello che realmente è successo. Perché ci sono, diciamo, le testimonianze delle persone che erano là e sono stato attento a turbare la persona che sentivo che mi raccontava, diciamo, quello che era successo. Sono stato attento a capire chi me lo raccontava, diciamo che ho preso in considerazione diversi aspetti per cercare di dare delle informazioni reali, no? Mi sono preoccupato molto, diciamo, di capire bene quello che era successo, perché questa cosa, diciamo, mi è saltata subito all'occhio, no? Sì. Che tutti hanno cercato di nascondere determinati aspetti sui ritardi, perché magari venivano a toccare responsabilità di alcuni, e sì, questo diciamo che è assodato, perché magari un giorno verrà fuori per bene tutto quello che è successo veramente, ma per ora io quello che ho potuto fare l'ho fatto, diciamo. Qual è la situazione oggi dei migranti sull'isola rispetto anche agli sbarchi e all'accoglienza? Per ora a Lampedusa non arriva nessuno, cioè ci sono qua tutto tranquillo, si stanno diciamo effettuando dei lavori al centro di accoglienza, però diciamo che sembra che Lampedusa, per quanto riguarda l'immigrazione, in questo momento sia stata un po' messa da parte. Dico così perché magari mi sembra proprio un po' messa da parte, nel senso perché sembra un po' gestita la cosa, poi sai, fare delle osservazioni non è una cosa che compete a me, magari persone che hanno in mano più dati possono fare delle osservazioni più complete, ma adesso a Lampedusa diciamo che per quanto riguarda l'immigrazione non è arrivato nessuno, tranne qualche sporadico sbarco diciamo di migranti, 10-11 dalla Tunisia, così. Allora, i riferimenti ce li hai lasciati, Antonino. Io ti abbraccio, magari ci sentiamo per le prossime novità, se avrai delle nuove in video. A disposizione. Benissimo. Per chi vuole vedere o farlo vedere questo documento, che per me diciamo è importante, io non lo faccio, non ho altri scopi né economici né di nessun tipo, no? Per chi è interessato a far vedere questo documento può contattarmi su internet, l'email è libera espressione lampedusa@gmail.com, mi può contattare associazioni che magari vogliono organizzare, certo, delle proiezioni, può chiamarmi, io sono disponibilissimo. Un abbraccio Antonino, a presto. Ciao Federico, grazie. Ciao. Ciao. Antonino Maggiore, regista della video inchiesta sul 3 ottobre 2013. Parliamo adesso della 26esima edizione del Trieste Film Festival, da domani 16 gennaio fino al 22, con Nicoletta Romeo. Ben ritrovata Nicoletta. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dei festival ultimamente ce ne stiamo occupando di meno, cerchiamo di parlare di quelli magari più periferici o con una dimensione più umana, quindi più piccoli, oppure con un prestigio legato anche alla loro storia. Questo Trieste Film Festival intanto ha una sua storia, perché sono 26 le edizioni, e poi sì, ha una dimensione veramente mitteleuropea, perché si occupa di tutta la cinematografia del centro-est Europa, giusto Nicoletta? Assolutamente, beh, ti ringrazio dei complimenti, mi sento molto privilegiata, se parlate poco di festival e noi siamo tra i pochi, beh, grazie innanzitutto. Sì, sì, come dicevi è una dimensione internazionale oramai, diciamo che trascende un po' i confini della mitteleuropa con cui avevamo cominciato tanti anni fa, sempre con un occhio al territorio attorno a noi, ma diciamo oramai con ambizioni internazionali. I nostri film stanno spaziando dai Balcani ai Baltici, alle ex repubbliche sovietiche, quindi oramai la nuova Europa è sempre più grande, con dei confini sempre più labili che cambiano continuamente. Noi diciamo abbiamo seguito e registrato e come dire monitorato questa zona oramai da tanto tanto tempo. Quante sono le opere che presenterete in questa edizione? Quest'anno il festival dura un giorno in più, quindi dai 6 giorni siamo passati a 7, e sono circa un centinaio tra cortometraggi, documentari e lungometraggi, con tante tante anteprime italiane e internazionali. Senti, ci sono anche dei lavori che si occupano magari in maniera tangenziale del conflitto in Ucraina? Beh, sì, diciamo che il festival non è insensibile a ciò che accade attorno a noi, e infatti fuori concorso quest'anno siamo molto contenti di presentare un documentario realizzato da un collettivo di 11 giovanissimi cineasti che si chiama Euromaidan, che è stato realizzato proprio durante i fatti di Piazza Maidan, e un regista poi, Roman Bondarchuk, veramente giovanissimo, ha raccolto tutto questo materiale, e il documentario è proprio un lavoro lunghissimo di montaggio su tutte queste ore girate in quei giorni, un po' come ha fatto Sergei Loznitsa, diciamo, col suo documentario Maidan già presentato a Cannes. Questo invece è proprio un'anteprima assoluta. Com'è strutturata la rassegna? La rassegna, guarda, è strutturata in quattro concorsi, uno dedicato ai lunghi e ai documentari, entrambi in anteprima italiana, un concorso dedicato ai cortometraggi e poi un concorso, una piccola vetrina dedicata ai film indipendenti italiani, a cui, diciamo, verrà assegnato il premio Corso Salani, in memoria del regista amico del festival e scomparso prematuramente qualche anno fa. Senti, ospiti sono previsti? Ospiti tanti. Allora, nonostante, diciamo, quest'anno il festival prediliga le opere prime, quindi giovani esordienti, veramente cineasti giovanissimi che hanno realizzato in realtà dei film straordinari, però il festival non dimentica i grandi maestri, e quest'anno infatti un graditissimo ritorno. Torna Zanussi, il grande maestro del cinema polacco, con il suo ultimo film in anteprima europea. Si tratta di Corpo Estraneo, un film dai toni noir, che ci racconta una crisi mistica, una crisi culturale, un'Europa che cambia, ed è una coproduzione italiana, e infatti speriamo che esca anche nelle sale presto, quindi per chi lo volesse guardare, comunque questa è un'anteprima. Senti, le tematiche principali di questo centinaio di lavori che presentate quest'anno? Beh, una l'hai nominata tu prima, ed è senz'altro il tema della guerra. Sì. La guerra torna in molte forme, in molti film di genere o non. Chiudiamo con un film dedicato alla guerra, si chiama Warsaw 44, un film polacco, campione d'incassi, tra l'altro in patria, dedicato alla rivolta di Varsavia, appunto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ci sono film anche sulla Prima Guerra Mondiale, una coproduzione slovena-austriaca dedicata al conflitto, tutto girato tra Austria e Slovenia. Quindi ecco, la guerra proprio, ahimè, la fa da padrone, senza dimenticare i problemi di oggi, e cioè le difficoltà di convivenza nelle banlieue delle grandi città, il disagio giovanile sempre crescente anche nell'Europa dell'Est, la xenofobia, il razzismo, quindi problemi molto attuali, direi, sia in Europa dell'Est ma anche dell'Ovest. Nicoletta, in chiusura ci lasci i riferimenti internet per la programmazione? Certamente, noi siamo presenti sul sito web, al sito www.triestefilmfestival.it, ma siamo anche molto presenti sui social network, su Facebook e su Twitter, dove, anzi, vi prego di seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività, sul programma, le foto, le news e le modalità d'ingresso. Un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, grazie per la vostra attenzione, e continuate a seguirci numerosi. Ciao Nicoletta. Ciao. Nicoletta Romeo del 26° Trieste Film Festival, da domani 16 gennaio fino al 22. In collegamento con Elisa Maurizi, co-regista del documentario Osterei, Monte Tancia 1944, che sarà in programmazione alla Biblioteca Comunale di Montopoli in Sabina, in provincia di Rieti, il 19 gennaio prossimo, quindi lunedì. Elisa, benvenuta a Visionari su Radio Andalusa. Salve a tutti voi. Oh, io poi ho messo co-regista perché mi ricordo che Andrea ha detto che eravate voi due, i due fratelli. Due fratelli che hanno appunto una passione in comune, che in realtà è quella del teatro. Sì. E sul progetto invece Osterei, che è un progetto più ampio, ci siamo uniti. Insieme a noi ci sono anche altri due ragazzi, Giovanni D'Artibale e Gabriella Torre, che hanno condiviso l'idea fin dall'inizio. Allora, per chi è all'ascolto, qual è la storia del Monte Tancia? Cosa successe nel 1944? Allora, diciamo, sul Monte Tancia, già dopo l'8 settembre del 43, diciamo, c'era distanza un gruppo di ragazzi, per lo più all'inizio diciamo disorganizzati soprattutto a livello politico, erano ragazzi molto giovani, del 25, dei ragazzetti come si definiscono poi loro nelle interviste, e magari renitenti alla leva oppure persone che si sono trovati diciamo nella nostra zona non sapendo bene cosa fare in quel periodo. E poi dopo invece dopo gennaio, febbraio del 44, invece sul Monte Tancia diciamo viene una delegazione del GAP centrale di Roma, che si erano sciolti perché insomma ormai erano troppi mesi che erano allo scoperto e non riuscivano più a tenere le zone di Roma che erano state liberate, vengono lì, e quindi da quel momento diciamo si ha una sorta di politicizzazione del gruppo. E come dice il nostro Eugenio Meneghini, c'era chi giurava sulla bandiera comunista e chi no, ma lui era uno di quelli. E il Monte Tancia comunque diciamo è stato appunto un luogo di battaglie e di rappresaglie anche. La battaglia quella più importante, quella del 7 aprile del 44, dove vede appunto i partigiani resistere a veramente delle armate potenti di sia naziste che fasciste, e li vede poi morti sul monte Arcucciola, vede sei partigiani uccisi sul monte Arcucciola appunto il 7 aprile del 44. E tutto questo avviene nell'ambito diciamo di un movimento più ampio, di una operazione più ampia che viene definita appunto Osterai, che poi dà il nome al corto, al documentario. Osterai in tedesco significa uovo di Pasqua, insomma, perché il periodo era appunto quello diciamo della Settimana Santa del 44, quindi tutta questa operazione che passa per il centro Italia prende questo nome beffardo, insomma, che vede oltre a questa battaglia anche delle rappresaglie poi sulle popolazioni da Poggio Mirteto al Monte Tancia, per passare poi più su Labbro, Morro, Leonessa, Poggio Bustone, insomma, quindi veramente una carneficina. Noi ci occupiamo principalmente diciamo della zona di Poggio Mirteto, Monte Tancia, per la zona che riguarda la Bassa Sabina, che è la zona dove viviamo Sì. Volevo chiederti quanti partigiani erano raggruppati in questa banda del Monte Tancia, e poi quante sono state invece le vittime delle rappresaglie, le vittime civili delle rappresaglie nazifasciste nella zona della Sabina. Guarda, erano diciamo circa 200 partigiani che erano in tre punti diciamo preposti, e invece nei vari eccidi diciamo sono stati uccisi proprio sul monte diciamo sotto al monte Arcucciola 15 civili, tra cui 6 bambini se non sbaglio, insomma solamente una bambina piccolissima in fasce si è salvata, e gli uomini che invece erano sui monti, insomma. Insomma, una storia abbastanza una rappresaglia gratuita, insomma, sì. Veramente senza senso, e tanto che anche il vescovo di Rieti scrisse proprio delle lettere indignato al comando generale, insomma, chiedendo perché anche i bambini sono stati trattati come gli adulti, che cosa dovevano punire, no? Sì. Senti Elisa, questo è un lavoro che avete realizzato alcuni anni fa, quindi immagino alcuni partigiani neanche ci sono ormai più. Quante testimonianze avete raccolto in questo lavoro? Allora, le testimonianze sono state diciamo una quindicina di interviste fatte, ma non tutti si sono fatti riprendere, perché il progetto nasce come diciamo il progetto video non nasce come progetto video, ma nasce come progetto teatrale, quindi noi facevamo le interviste ai partigiani, alla una staffetta che è di Montopoli Sabina, però diciamo così in modo più per noi che poi per produrre un video, E invece ci siamo resi conto subito che il materiale era un materiale assolutamente potente, e quindi abbiamo voluto insomma lasciare un segno forte oltre allo spettacolo, perché poi insomma lo spettacolo devi esserci sempre presente, invece il video lo puoi riproporre. Noi abbiamo donato anche questi materiali al museo di Via Tasso insomma un paio d'anni fa, in un evento pubblico insomma. Mm-hmm. Sì, anche perché mi diceva Andrea che ha raccolto molto interesse, ci sono delle richieste anche per delle tesi di laurea rispetto a quelle vicende. Sì, sì, sì, sono qui a Poggio Mirteto, diciamo un po' alle vicende di questo, ce ne sono state solamente due proprio nell'ultimo anno e mezzo. Sì, sì, sì, sì, quindi sì. Insomma sì, infatti anche come dicevamo prima, il progetto è del 2003-2004, fatto appunto in occasione dei 60 anni insomma della festa della liberazione, e dopo 10 anni ancora è vivo, è importante, anzi forse è anche più importante ora, come dicevamo prima, dove purtroppo non ci sono quasi più i partigiani che abbiamo intervistato. C'è rimasta una staffetta che all'epoca era una ragazzina e un paio insomma di partigiani, Renzo Ricci e Meneghini Eugenio, che erano poco più che 17enni e 18enni insomma. E comunque avete nel corso del tempo previsto una serie di proiezioni, mi parlava anche di una che ci sarà il 4 aprile se non sbaglio, quindi c'è tutto un calendario legato a questo lavoro. Sì, perché diciamo questo, noi stiamo facendo una serie di attività legate a un progetto della Regione Lazio che si chiama Quello che resta, Memoria e Resistenza in Sabina, insieme a 3 amministrazioni comunali che sono quelle di Montopoli, Sabina e Stimigliano e Forano. E il progetto è più ampio e articolato e prevede appunto una serie di attività nelle scuole, con laboratori, incontri, proiezioni, film, proprio così per ricordare quella che è la memoria del nostro territorio, che insomma ha dato tanto e alla lotta per la liberazione dell'Italia. Quindi ci piace insomma fare queste attività soprattutto con i ragazzi, perché scopriamo proprio lo stupore oltre che l'interesse. Poi soprattutto anche qui diciamo noi non siamo immuni, come dire, da persone che vengono dall'estero anche con situazioni complicate, difficili, di guerre. Ci troviamo anche ad esempio a parlare di ragazzi di Montopoli Sabina che sono saltati sulle mine per sminare, e una ragazzina della scuola media aveva avuto la stessa esperienza un anno fa con una persona della sua famiglia. Quindi come dire, la memoria sì è della Sabina, ma è una memoria che dovrebbe anche aprirci insomma al mondo, perché no, diversamente mi sa che non andiamo da nessuna parte. Eh sì, anche perché i conflitti sono quotidiani, ci sono in ogni parte del mondo. Sì, veramente era veramente pauroso rivivere, cioè pensare che ancora oggi possa succedere quello che noi abbiamo dato per scontato che non succeda mai più insomma. Certo. Senti Elisa, in chiusura ci dai riferimenti della vostra compagnia anche per sapere di più sul calendario di queste proiezioni del documentario? Sì, guarda, noi siamo presenti su tutti i social network, da Facebook a Twitter, YouTube, e chi più ne ha più ne metta. Il nostro sito comunque è condizioniavverse.org insomma, e quindi potete seguirci anche dal sito. Un abbraccio e a presto. Grazie a voi. Ciao Elisa. Ciao. Elisa Maurizzi, co-regista del documentario Osterae, Monte Tancia 1944, in programmazione alla Biblioteca Comunale di Montopoli in Sabina lunedì 19 gennaio prossimo. Allora, diciamo subito che non era in scaletta, però ci siamo riusciti a trovare spazio per Giulio Squillacciotti, che già era stato nostro ospite per il suo documentario RMHC, che ora è uscito in DVD. Giulio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie mille. Allora, per chi avesse perso quella puntata, che storia è questa? Allora, questo qui è un documentario ormai iniziato nel 2005, finito nel 2012 e 2 anni dopo è uscito il DVD. È un documentario che racconta diciamo un decennio di esperienze romane di musica hardcore, quindi i Pischelli, che a suo tempo, metà anni 80, hanno importato dei caratteri, degli stilemi musicali attitudinali dall'America e li hanno metabolizzati alla romana. Quindi in realtà più che un documentario musicale è un documentario sulla storia umana e soprattutto cittadina di certi fenomeni importati e fatti propri, come diciamo arco cronologico ho preso l'89-99, come a dire che insomma alla fine anni 90, insomma con l'avvento no, insomma con la presa di posizione dell'internet le cose sono un po' cambiate, allora mi interessava fare un po' un punto, non mio ma insomma un punto corale di questa storia, avendone fatto parte fino alla metà degli anni, fino a fine 90 anch'io, e quindi ho detto fammela raccontare con le voci delle persone che ne hanno preso parte. Anche perché in quel periodo, cioè dalla seconda metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90, quel decennio è stato quello propulsivo, per esempio per tutta l'esperienza autogestionaria dei centri sociali insieme all'hip hop, penso, o alle posse e il ragamuffin, l'hardcore è stata una delle espressioni di punta di tutto quel movimento. Esatto, ma infatti un aspetto molto importante presso il decennio è questo qui, ma ovviamente sono sempre abbastanza lascivi i due estremi, no? Nel senso che si parla già di anni di 84 e così. Una cosa interessante è come venivano visti, per dire, i punk nei centri sociali, quindi insomma proprio gli anni 80, così come anche loro si siano dovuti affermare, come questa cosa non era molto capita. Di conseguenza anche l'hardcore, che era una cosa invece un po' più meno nichilista, un po' più positivo, costruttiva, veniva vista, non essendo troppo politicizzata all'origine, non era vista come una cosa ben chiara e identificabile, no? E così come poi tutto quello che è venuto dopo anche in parallelo, e diciamo che queste cose sono nate proprio grazie a certi posti che ci stavano in Italia, visto che parliamo di Roma, proprio a Roma, sì. Cioè gli spazi occupati, autogestiti, e all'interno dei quali i Pischelli hanno potuto prendere uno strumento e provare a suonare, insomma. Senti, come hai realizzato questo documentario, che io ho avuto modo tra l'altro di vedere un po' di anni fa? Per chi ci ascolta, raccontiamolo un po' com'è strutturato. Allora, guarda, è strutturato, diciamo che il lavoro di costruzione narrativa è venuto quasi esclusivamente al montaggio, sì. Nel senso che non c'era nessuna storia prescritta se non una serie di appunti che io mi ero fatto di come secondo me era andata la cosa, e quindi in realtà è tutto costruito sulla giusta posizione di voci differenti rispetto allo stesso contesto, no? Quindi punti di vista diversi rispetto a degli anni che tornano per tutti, e a dei topic, a dei motivi che queste persone seguono, che vuol dire come non è cronologica quanto cronologica in termini di anni, e quanto invece lo è cronologica nei termini della vita delle persone, cioè come uno si è approcciato a questa cosa, come ne è venuto a conoscenza, come l'ha portata avanti, come ha fatto il passo in più di diventare parte attiva di una scena. Rispetto alla geografia della città, come la si viveva questa cosa, geografia anche umana, quindi le persone più prossime che non capiscono quello che stai facendo perché è una cosa un po' nuova, quindi compagni di classe, tutte queste cose qua, fino a parlare ovviamente degli spazi in cui si suona, e poi magari alla rottura della scena, che intesa con appunto l'avvicendarsi di persone sempre nuove, uno diciamo cerca di tenersi vicino alla cosa che ha costruito lui, non condividendola più, e quindi poi un po' le cose vanno a puttane e la gente si separa, poi la gente cresce anche e fa altre cose, no? Sì. che non vuol dire che continuare a suonare vuol dire non crescere, però appunto la gente cresce in termini di interessi o comunque si lascia dietro delle cose. Quindi in realtà il film è costruito in maniera corale, con tantissime persone che si avvicendano nella descrizione di quello che hanno vissuto sia personalmente e obiettivamente, e con materiali di repertorio, fotografie. E la musica, diciamo che una cosa che, ecco, lì c'è un po' stato il mio intervento, una cosa che io volevo moltissimo era avere una musica, avere un fil rouge col presente che fosse musicale. Allora l'idea è quella di non usare musica hardcore nel film, se non quella che puoi vedere dai video. Quindi l'unica musica hardcore che c'è è quella che si può vedere anche nei video di repertorio, nei VHS, che poi io mano a mano ho recuperato, mentre la musica proprio in sync, la musica di sottofondo, è fatta da Gypsy Rufina Emiliano, che era il bassista di Redemption, uno dei gruppi hardcore della scena romana, che ormai da credo una buona decina d'anni suona folk in giro per l'Europa, il mondo, anzi, passa metà anno in Brasile. Allora l'idea era quella di dire che comunque la musica non è così importante, perché formalmente cambia, ma lo spirito resta un po' lo stesso. Lui continua a fare lo stesso che faceva prima, semplicemente cambiando musica. Allora mi interessava tenerla, usare una musica differente, insomma. Quindi quello è stato un intervento, sì, che rivendico e di cui sono molto felice. Hai citato il nome di un gruppo e a questo punto mi fai venire con piacere in mente i ricordi, perché io ho cominciato qui in radio una trasmissione vera e propria musicale. Prima facevo, leggevo il giornale radio, facevo la rassegna stampa. Ho iniziato proprio con una trasmissione musicale con un'altra persona che ormai non c'è più, purtroppo, e andavamo in giro per spazi occupati a registrare i concerti con il DAT, e quindi la scena hardcore, insomma, è abbastanza testimoniata anche per quanto riguarda la nostra trasmissione. Erano tanti i gruppi hardcore, e quindi volevo chiederti anche quanti sono i singoli, o insomma i gruppi delle band che hai con cui hai interloquito per la realizzazione di questo lavoro. Scusate, guarda, infatti più che di gruppi parlerei di singoli, perché sì, in realtà è anche una cosa metaforica rispetto alla storia, perché il punto non era quello di intervistare gente che avesse suonato, avesse fatto parte della scena in termini musicali, ma gente anche che la viveva di riflesso in termini appunto musicali sempre, ma che fosse sempre presente, perché al tempo appunto far parte della scena voleva dire esserci, quindi sì, non scrivere, sì, sì, sì, su internet bravi, ma stare lì in mezzo. E allora in realtà sono tipo credo intorno a una cinquantina, quarantina, adesso non mi ricordo bene, comunque sono un botto di persone, diverse decine di persone. Diverse decine di persone, quindi diverse, sì sì, e a gruppi in realtà, infatti non calcolerei neanche gruppi, ci sono gruppi che compaiono nel repertorio, però sì, comunque sono non meno di 40 persone, direi. Mm-mm. Senti, come testimonianza audio, cosa resta, sì, di quella stagione? Beh, restano un botto di 7 pollici, alcune compilation, poi insomma anche CD, e il resto in gruppi che ancora suonano. Mm-hmm. Cioè, in termini di archivio, appunto direi proprio i 7 pollici e gli LP, che venivano comunque prodotti in maniera insomma autoprodotta alla fine, cioè c'erano le etichette, ma infatti questa qui è una parte divertente del film in cui qualcuno critica i Growing Concern, quindi uno dei primi, proprio forse il primo gruppo hardcore di Roma, sì, li critica perché hanno fatto uscire un 7 pollici su un'etichetta discografica e non se lo sono autoprodotto, invece l'etichetta era semplicemente di un amico loro che aveva voluto mettere il nome alla cosa. Quindi in realtà in questo senso dico è una fase molto importante della insomma anche degli aspetti politici di questi mondi qui, perché era una cosa abbastanza innovativa, no? Cioè sì, si scavallava un po' il modo di fare le cose tradizionali, poi magari era lo stesso, semplicemente cambiava un po' il nome, no? Cioè mettere un nome a un'etichetta anziché dire sì, è autoprodotto, anche se poi di fatto era autoprodotto. Senti, c'è anche una documentazione cartacea, c'erano delle fanzine? Sì, beh, c'è una ragazza che diceva una cosa molto interessante, diceva era come un mondo a parte in cui avevamo la nostra editoria, la nostra arte, la nostra musica, e che insomma ovviamente i mezzi per raccontare quello che si faceva oltre alla musica o le fotografie erano le fanzine, quindi le cose ciclostilate, fotocopiate, messe insieme e vendute. Mm-hmm. Quindi una cosa anche divertente erano, non so, le recensioni dei dischi, no? Magari un disco usciva in America e veniva recensito in Italia, che ne so, 6 mesi dopo. Mm-hmm. E invece adesso se ci pensi mandi che è figo uguale, da paura, per un gruppo avere una recensione subito all'altro lato del mondo è comodissimo, certo. Però appunto era divertente questa metabolizzazione lentissima delle cose, che appunto magari le recensioni venivano fatte su carta così e vendute con certi stessi, oppure vendute per posta con i mail order, che tu dovevi spedire la lettera con dentro già il francobollo per farti rispedire alla fanzina indietro. Bene Giulio, senti, ci lasci i riferimenti per questa uscita in DVD? Allora guarda, il DVD si può trovare fisicamente per chi sta a Roma dal Nation, da Roberto, a Via Nomentana 113, proprio a Porta Pia, e se no sul nostro sito, che è www.rmhc-film.com, e lì c'è proprio una sezione DVD, c'è un PayPal e lo vendiamo direttamente noi così. E questo DVD appunto è totalmente autoprodotto, ritornato in quella scena lì, e quindi è fatto in casa in collaborazione con un'etichetta indipendente di editoria che si chiama Row, e quindi in realtà dal nostro sito rimanda a loro, da cui si può prendere, però appunto comunque è fatto in casa da noi il DVD. Bene. È un digipack che costa a mano, insomma, comunque in Italia 15 euro compreso le spese di spedizione, se no a mano 12-13, insomma, quello dipende da caso. Giulio, io ti ringrazio, un abbraccio e alle prossime cose. A tutti, ciao, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Bene, questa era l'ultima con Giulio Squillacciotti per l'uscita del DVD di RMHC, questo documentario di cui ci eravamo occupati anche in passato. È tutto per Visionari di questa settimana, si torna giovedì sempre dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info.